Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Apriamo con i risultati di uno studio dell'Università di Pechino e dell'Istituto Pasteur di Shanghai, secondo cui sarebbero due le tipologie di coronavirus: un tipo L, più contagioso e letale, un tipo S, molto meno aggressivo. Leggiamo questi dati insieme al professor Massimo Ciccozzi, responsabile dell'unità di ricerca di statistica medica e epidemiologia molecolare dell'Università Campus Biomedico di Roma. Dunque, io ho letto il lavoro e devo dire che mi ha interessato in parte, molto complicato, ma è fatto, diciamo, con criteri scientifici buoni, una buona guida. Io ho solo una cosa da dire: come fanno a dire che uno è più aggressivo e l'altro meno aggressivo in termini di patogenicità quando non hanno fatto prove di patogenicità? Cioè, loro identificano due ceppi sulla base di mutazioni, loro le chiamano sinonime e non sinonime, cioè silenti o non silenti. Quindi sulla base di queste due mutazioni fanno un albero filogenetico, quindi un albero che riassume un po' la genealogia del virus, lo dividono in due grossi gruppi, di cui appunto parlano di LS. Però io non vedo prove di patogenicità, cioè l'evidenza scientifica che uno è più patogeno dell'altro io non l'ho vista in questo lavoro, quindi andrei cauto. È un bel lavoro, ripeto, a me l'ho letto, è piaciuto, un po' difficile da leggere per quello che è un lettore che non è proprio dentro il problema. Ma non aggiunge al momento indicazioni? No, non ci dà un'indicazione importante per farci capire veramente che erano due ceppi diversi che girano. Insomma, io sarei cauto, ecco, a dire una cosa del genere. Farei altre prove. Professor Ciccozzi, quali indicazioni ci dà invece il fatto che la curva del virus stia frenando in Cina? Questo dato come ci aiuta a leggere la situazione in Italia e a prevedere l'evoluzione? Come tutte le epidemie, intanto ce lo aspettiamo che prima o poi ci sia un rallentamento, è evidente questo. Probabilmente questo rallentamento è dovuto alle misure di quarantena che hanno fatto. Non dimentichiamoci che la provincia di Hubei, solo la provincia di Hubei, è tutta l'Italia come densità di popolazione. Quindi loro hanno fatto una quarantena importante, hanno veramente dato una stretta, un giro di vite molto, molto serio ed importante. In più, quello che questo, diciamo, non è che contrasta con lo studio di cui parlavamo prima, ma insomma gli dà un po'... non dico contro, ma dice delle cose. Noi abbiamo fatto uno studio dove abbiamo visto che dall'inizio alla fine questo virus non è ancora mutato per bene, nel senso ha fatto piccole mutazioni che non significano niente, che non lo favoriscono. Quindi ecco, forse la sua bassa letalità è anche dovuta al fatto che lui non cambia, è sempre lo stesso dall'inizio alla fine. Quindi queste misure restrittive ci fanno vedere questo rallentamento. Ora noi che cosa speriamo? Che anche le nostre misure restrittive ci diano lo stesso risultato, certo, non nell'immediato, è un'epidemia che ci ha colpito più tardi rispetto alla Cina, anche se, ma questo lo potremo dire quando avremo tutte le sequenze italiane in mano e faremo un discorso evolutivo per tutti i genomi che avremo isolati dai pazienti italiani, potrebbe magari essere stata non vista prima, 2-3 settimane prima di quando noi abbiamo visto il primo caso. Bene, per oggi è tutto, tra poco vi aspetto in diretta Facebook, parliamo della salute del nostro udito. A tra poco, mentre la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog.